peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni del Salpinaz. Oggi direi che un po' tutta la puntata è dedicata a un'influenza che il jazz ha a livello internazionale, soprattutto in Europa, però non solo, perché poi si abbraccia un territorio piuttosto allargato. Ormai da tempo che l'influenza, il jazz viene influenzato da linguaggi diversi, ma ormai si integrano in maniera tale e così profonda da diventare linguaggi autonomi che si esprimono anche in culture o con progetti anche piuttosto diversi da quello che può essere un'origine legata al jazz. Naturalmente l'Europa è un punto di riferimento primario. Il primo disco dal quale ascolteremo un brano è un lavoro interessante, un progetto interessante condotto da Gunther Baby Sommer, un vecchio batterista ormai, nonostante il baby, ha già passato i 70 ed è uno dei pilastri di quello che è stata l'avanguardia tedesca negli anni 70, dagli anni 70 in poi, facendo parte poi, cioè ha fatto parte negli anni 70 della maggior parte dei gruppi di musica improvvisata, di musica di ricerca, legati non solo alla Germania ma anche a tutti i musicisti che confluivano nella Germania e Germania dell'Est, che in quel momento vivevano un'attività estremamente vivace di ricerca nell'ambito dei linguaggi del jazz improvvisato. Questo è un progetto che conduce con musicisti greci ormai da qualche tempo. L'occasione però è stato un concerto che è stato eseguito a Comneno in Grecia. Baby Sommer ha imparato di una strage che era stata fatta in questo paese, piccolo paesino, una strage di 350 e passa persone, donne, bambini, eccetera, dai nazisti. Questa occasione ha dato lo spazio per dedicare il concerto a questo evento, alla memoria di questo evento drammatico, e anche gli altri musicisti greci si integrano perfettamente con un risultato molto, come dire, liricamente molto intenso, molto profondo, molto emotivo. Ascoltiamo un brano. Naturalmente queste sono forme e linguaggi che si distanziano spesso da quello che può essere anche una tradizione jazzistica, ma si esprimono in un territorio che fa parte della radice del jazz, che è quindi dell'improvvisazione e dell'espressione improvvisata di quelli che sono sentimenti profondi. Thank you. Questo era Songs of Comeno, un brano preso da questo bel disco di Gunther Babysommer, alla batteria Babysommer, alla voce quella di Savina Iannatou, poi al sax le anze, Floros Floridis, allo oud, alle percussioni, agli strumenti, diciamo, a corda, Eugenius Vulgaris, e al contrabbasso Spilos Castanis. Quindi tutti greci, e l'atmosfera è quella di una, come dire, un recupero anche delle tradizioni popolari, con naturalmente poi dei momenti, l'ultimo brano che vi ho ascoltato, che era anche quello che conclude l'intero lavoro, è decisamente più jazzistico. E mantenendo sempre quindi un gruppo greco guidato da un batterista tedesco, sicuramente il personaggio più conosciuto, sempre continuando sullo stesso periodo, sulla stessa tradizione, diciamo, di origine, altro musicista tedesco è Alexander von Schlippenbach, pianista anche lui nato perlomeno ha avuto artisticamente una evoluzione importante negli anni 70, è stato uno dei componenti fondamentali della Globe Unity, un'orchestra che praticamente raccoglieva un po' tutti i talenti della Germania, sia dell'Est che dell'Ovest allora. E in questo caso Schlippenbach, che ha continuato la sua attività sia in formazione in trio, piano piano solo, o con progetti interessanti e di ricerca, sempre mantenendosi con un'attenzione sia sulla tradizione che sulla ricerca, e un ultimo progetto decisamente ben riuscito e di ottimo livello è la guida di un'orchestra norvegese, ormai anche qui sono molte sia le orchestre che i musicisti dell'area scandinava che si propongono con lavori di grande qualità, di grande interesse. In questo caso l'orchestra è la Kitchen Orchestra, con molti musicisti, come dire, che rivestono poi un ruolo insomma, a seconda dei momenti, più o meno importante come solisti, ma soprattutto c'è una tessitura orchestrale interessante e appunto che tiene conto sia di quelle che possono essere tradizioni che di ricerca. Nell'ambito sicuramente della tradizione i brani che ascolteremo, l'ultimo, sono due i brani che ascolteremo, tre i brani che ascolteremo, l'ultimo è uno dei temi più conosciuti composti da Eric Dolphy e quindi anche come dedica Eric Dolphy. Ascoltiamo questi vari momenti di questo bel lavoro intitolato appunto Kitchen Orchestra with Alexander von Schlippenbach. Thank you. Kitchen Orchestra guidata da Alexander von Schlippenbach. Alcuni protagonisti, sicuramente il protagonista maggiore è la tromba di Gunhild Seim, poi anche il sassofono di Boon Henriksen. Questa musica si delinea proprio nella tradizione di quella che è stata anche l'evoluzione nella musica orchestrale europea, che tiene conto sia dell'esperienza della Globe Unity per la quale ha lavorato anche come arrangiatore Schlippenbach, sia anche di quello che poi è stata l'esperienza da Vienna Art Orchestra e di quello che attualmente sono le grandi novità che vengono da tutto il mondo scandinavo nell'ambito della musica orchestrale. Quindi anche questo è un disco registrato e uscito recentemente, come peraltro quest'ultimo lavoro del contrabbassista Renard Garcia Fons, un virtuoso straordinario, virtuoso del contrabbasso, musicista francese, nasce nei dintorni di Parigi, però che abbraccia la propria tradizione, la propria provenienza culturale spagnola, e l'abbraccia, come dire, sempre di più negli ultimi anni. Ormai è diventato un musicista che organizza formazioni e concerti di elaborazione della musica tradizionale spagnola, quindi del flamenco. Questo, tra l'altro, servendosi anche di eccellenti musicisti che appunto percorrono queste strade della tradizione spagnola. L'ultimo lavoro è sempre uscito per l'etichetta Enja, dà uno spaccato di questa bellissima musica reinterpretata e riletta con una maestria straordinaria. Quindi è un musicista che nasce dall'esperienza jazzistica, perché le sue esperienze sono notevoli negli anni 90 con varie formazioni anche legate all'avanguardia. Poi approda e consolida la propria attenzione per un progetto di recupero e di elaborazione del flamenco. Ascoltiamo un paio di brani presi da quest'ultimo lavoro, che è intitolato What's Cooking, intitolato Beyond a Double Bass. Bye. questo era García Fons, che sempre di più si avvicina a quello che è il linguaggio magrebino, quindi l'aspetto magrebino della ricerca musicale o comunque dell'approfondimento musicale che persegue da tempo García Fons. L'ultimo lavoro, che prevede anche poi un video, una registrazione di concerto, un disco uscito recentemente per l'etichetta Angel, intitolato Beyond the Double Bass. Il disco successivo, il disco che ascoltiamo adesso, è di un gruppo di giovani, decisamente giovani, siamo sotto la trentina, almeno per quanto riguarda il protagonista, che è un sassofonista nero, si chiama Sabaka Atkins, sassofonista che ha le sue radici nel Ghana e che in questo lavoro, un lavoro proposto e elaborato poi da un altro musicista del quartetto, perché di un quartetto si tratta, che è il più conosciuto sicuramente del quartetto dei quattro, ed è Oren Marshall, trombonista e tuba, in questo caso tuba. E il disco è intitolato Barn, e la formazione, il quartetto, si chiama Song of Kermit. È una musica interessante, soprattutto perché è un linguaggio, come dire, che ha dei riferimenti africani evidenti. Atkins, tra l'altro, abita per diversi anni nelle Antille, quindi impara e cerca dei linguaggi di provenienza, le origini dell'Africa, le cerca anche nel Centro America. Sono accompagnati questi due strumenti, quindi è abbastanza particolare da un punto di vista timbrico, tuba e sax, sono accompagnati da due batteristi, anch'essi piuttosto giovani, Tom Skinner e Seb Rockford. Il risultato è interessante, decisamente con punte di qualità elevata, e la cosa che si evidenzia maggiormente è una sorta di semplicità, di semplificazione anche di quello che può essere il percorso, lo schema musicale è estremamente tribale, estremamente semplice e proprio per questo decisamente accattivante. Atkins ha un suono abbastanza sporco come sassofono, ma ha una preparazione tecnica notevole, una preparazione classica alle spalle. Quindi è proprio una scelta artistica quella che poi produce questo Song of Kemet in questo lavoro, uscito di recente, peraltro anche salutato con molta benevolenza da parte della critica internazionale. Ascoltiamo un paio di composizioni di questo lavoro. Thank you. Questo era Song of Kemet, disco Barn, un quartetto inglese di giovani, un quartetto recente. Con questo lavoro si sono fatti notare, giustamente, perché sicuramente è interessante. Era anche l'ultimo ascolto per oggi e vi ricordo che l'intera trasmissione e tutte le informazioni relative ai dischi che abbiamo ascoltato le potete trovare nel nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione playlist. Salve a tutti e alla prossima. Stop Peanuts. Stop Peanuts, Stop Peanuts. Stop Peanuts, Stop Peanuts. Stop Peanuts, Stop Peanuts. Stop Peanuts, Stop Peanuts. Sal Peanuts. Jazz on Megahertz. Stop Peanuts, Stop Peanuts. Stop Peanuts, Stop Peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.